Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. E ci sono novità anche su Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati, rieccoci alla finestra sul cortile, il nostro appuntamento settimanale con la cultura internazionale. Cosa sta succedendo nella Repubblica dei Filosofi? C'è una nuova tribù armata di scanner, di computer e di altre diavolerie tecnologiche che si sta facendo largo a gomitate e cerca di prendere il potere. Ma gli eredi di Platone e di Aristotele non vedono molto di buon occhio questi invasori alieni. E anche in quella che fino a qualche anno fa era la Repubblica dei Talebani in Afghanistan, si avanza una strana tribù, quella delle donne che si ribellano ai soprusi e alle violenze del potere patriarcale e rivendicano i loro diritti. Di donne nell'Islam e di nuovi filosofi parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il sommario di oggi. Inghilterra. Arriva la X Philosophy, una nuova disciplina che mette a dura prova le idee con ricerche di laboratorio. Germania. A scuola di politica. L'Accademia Tecnica di Kell organizza un corso di allenamento alla campagna elettorale per chi desidera scendere in campo. Francia. Non solo politica per Sarkozy. Il presidente francese compare come personaggio in due libri. La Reine Lectrice di Alain Benet e Dans le peau de Nicolas di François David Angevin. Afghanistan. A 8 anni dalla caduta del regime talebano, le donne fanno progressi nell'affermazione dei loro diritti. Israele. Aquiloni del deserto. Secondo gli archeologi, le costruzioni preistoriche a forma di aquiloni servivano per cacciare. Giappone. La crisi economica incide anche sui matrimoni. Nessun ricevimento e niente bomboniere per gli sposi nipponici, che salvano solo il servizio fotografico. Quando pensiamo ai filosofi, tendiamo un po' a pensare ai saggi dell'Isola Volante di Laputa, non so se ricordate quella dei viaggi di Gulliver, dove questi signori stavano tutto il giorno a meditare su concetti astratti che poi non riuscivano a tradurre in pratica. Su Prospect, David Edmonds invece ci racconta di una nuova generazione di filosofi che, per così dire, si sporcano le mani in laboratorio, che fanno degli esperimenti sulla condotta e sui comportamenti umani e anche sui meccanismi del pensiero. Questa nuova corrente, scrive David Edmonds, si chiama in gergo X-Fi, filosofia X, ed è appunto legata alle neuroscienze, alle applicazioni delle nuove tecnologie al funzionamento del cervello umano. Uno di questi filosofi, si legge nell'articolo di Prospect, è Katia Wich, che è una tedesca che lavora al John Radcliffe Hospital di Oxford e che ha fatto degli esperimenti molto curiosi, molto avanzati, perché lei ha provato a dare delle scariche elettriche a un gruppo di pazienti mostrandogli un dipinto della Madonna, della Vergine Maria, e ha notato che i cattolici sentivano meno dolore che non gli atei, e in questo modo ha dimostrato quanto la religione possa avere una funzione, diciamo così, anestetica o cura e di terapia del dolore. Wich è una neurologa e appunto cerca di lavorare insieme ai filosofi per risolvere delle questioni, delle problematiche che appartengono forse più al dominio della filosofia che non a quello della scienza. In passato, soprattutto negli ultimi nell'ultimo secolo, i filosofi si sono dedicati piuttosto alla speculazione astratta, ma un tempo, quando filosofia e scienza erano in qualche maniera sorelle, camminavano di pari passo, gli scienziati facevano anche degli esperimenti, e questo è stato il caso di Cartesio, di John Locke. E in seguito poi c'è stata come una separazione e le due discipline, diciamo così, si sono allontanate. Ora invece c'è come un ritorno sul terreno della sperimentazione. Per esempio, qui in questo articolo si parla di esperimenti di un certo Joshua Knobb, che studia l'intenzionalità, per esempio come un manager decida degli investimenti a seconda se sono dannosi o favorevoli invece all'ambiente. Un altro esperimento sempre di Knobb è dedicato al libero arbitrio e sostiene appunto che mentre tutti noi siamo portati a pensare di vivere in un mondo abbastanza deterministico, poi però quando ci mettono di fronte ad un dilemma etico, a quel punto torna a galla, diciamo, la responsabilità individuale. Oggi sempre di più i filosofi vengono interpellati dai governi per risolvere questioni pratiche, e certamente è il caso del nostro ospite che abbiamo al telefono, Giulio Giorello, che salutiamo e ringraziamo di essere alla finestra sul cortile. Grazie a voi. Filosofo della scienza, quindi diciamo di esperimenti se ne intende. Ecco, lei come giudica questa nuova corrente di pensiero che immagino lei conosca? Ma io la giudico molto favorevolmente, perché non mi sembra poi neanche tanto nuova, nel senso che si torna a un'esigenza profonda, anche lei che Berge aveva detto citando la grande filosofia del Seicento, aveva citato Cartesio, basterebbe ricordare la disputa di William Molyneux, George Berkeley e molti altri sul problema della percezione del mondo che ha un cieco che recuperi la vista, di tu un cieco certo. che apprenda a vedere. Una storia che è stata ricostruita mirabilmente nel Novecento dal grandissimo Richard Gregory, tra l'altro. Ecco, questo mi sembra proprio questo nuovo indirizzo, una ripresa di questa grandiosa tematica, ma direi di più, che siamo nella prospettiva di calare le teorie filosofiche in un contesto controllabile. Certo. È un po' l'idea di epistemologia naturalizzata di Quine, cioè noi capiamo il nostro modo con cui conosciamo e ci orientiamo nel mondo proprio grazie a tutto un insieme di informazioni che ci vengono dalla fisica, dalla biologia e io direi adesso soprattutto dalla neurofisiologia. Mi pare che i nostri migliori compagni di strada in filosofia sono scienziati che so io, come Antonio Damasio. Certo, Damasio per l'appunto ha scritto un libro che si intitola L'errore di Cartesio, in cui sostiene che era sbagliato concepire una res cogitans e una res extensa come due realtà, due sfere separate. Ecco. Certo. Però ecco, molti criticano però questa ex fi, chiamiamola così, no? Perché dicono che questo scanning cerebrale ci consente per esempio di valutare i danni cerebrali in seguito a un incidente o cose di questo genere, quando uno ha un tumore o ha dei problemi di natura organica, funzionale, ma è molto più difficile vedere i meccanismi del pensiero all'opera. Quello che è interessante è che studiando anche situazioni patologiche si comincia a sapere di più o a rendere più interessante la possibile gamma di soluzioni anche per i comportamenti normali. Quello che ha fatto per esempio Michael Gazzaniga a proposito del cervello diviso. Cioè io ho detto molte cose anche su come funziona il nostro normale cervello senza la separazione tra emisfero destro ed emisfero sinistro. Quindi attenzione, è vero, lei lo dice giustamente, Damasio ha mostrato l'errore di Cartesio, Però felice quella filosofia di cui si possono mostrare gli errori, perché dagli errori che si impara. Il grande sviluppo, da una parte dell'evoluzionismo darwiniano, dall'altra parte della neurofisiologia, ha messo in scacco il dualismo cartesiano. Oggi forse cominciamo ad avere un'idea dell'interazione mente-corpo, o certo, di questa cosa elusiva che si chiama mente, proprio grazie alle informazioni che ci vengono da esperimenti di laboratorio. Non vuol dire che tutto si riduce a esperimenti di laboratorio. Io non so se certo, si potrà fare una neuroteologia, no? Per citare l'esempio che lei rifaceva. Beh, prima. Qualcuno ci prova, insomma, sì. Qualcuno ci prova e possono essere cose interessanti. Io francamente non lo so. Ecco. Se mi dessero una scossa elettrica mentre guardo un quadro della Madonna, non sarei più sollevato che se invece guardassi, che so io, la vena del Botticelli. Forse mi piace di più la vena del Botticelli, è questione anche molto di sensibilità, non c'è estetica. Bene, certo. Noi ringraziamo il professor Giorello, alla prossima. A presto. E a proposito di filosofia applicata, ci spostiamo in Germania e precisamente nell'università, nell'Accademia Tecnica di Kehl, dove una volta all'anno viene offerto un corso di allenamento alla campagna elettorale per tutti quei cittadini che desiderino buttarsi in politica. 600 euro e 3 giorni di insegnamento intenso promettono a ogni aspirante sindaco di migliorare nel difficile arte di tenere comizi e presentarsi al pubblico in maniera vincente. Finora un candidato su 3 uscito dall'Accademia è riuscito nell'intento di farsi eleggere. In generale accade ai più simpatici, perché non c'è competenza che tenga. Anche se sei bravo e preparato, ma antipatico, alla fine poi non ti vota nessuno. E ci spostiamo in Francia, sulle pagine della rivista Les Inrecuptibles. Un articolo di Raphaël Leiry ci parla di Sarkozy, ma come personaggio romanzesco. Infatti, in alcuni libri compare la figura del presidente francese in veste di personaggio di fiction. Un caso è La sovrana lettrice, che in italiano è stato tradotto da Adelphi, dove appunto il presidente Sarkozy compare come ospite della regina d'Inghilterra, che gli parla di Jean Genet, lui non sa nemmeno chi sia. E invece c'è un altro romanzo, Dans la peau de Nicolas, di Francais David Angevin, in cui addirittura il presidente francese è il protagonista. Il sarkozismo, insomma, sta invadendo la letteratura. È un'ossessione per il personaggio Sarkozy che conosciamo bene anche in Italia, per altri personaggi. La finestra sul cortile. Dalla Repubblica dei Filosofi alla ex Repubblica dei Talebani. Sulle pagine dell'Herald Tribune, un articolo di Kirk Semple ci accompagna alla scoperta di quello che sta succedendo in Afghanistan nell'ambito dei diritti delle donne, perché noi sappiamo che la società afghana, una società tribale, patriarcale, ha sempre considerato le donne come delle proprietà degli uomini. Questa è sempre stata la tradizione, ma qualche cosa si sta muovendo. Insomma, Kirk Semple ci racconta la storia di Mariam, che aveva 11 anni nel 2003 quando i suoi genitori la obbligarono a sposare un 41enne barbuto talebano per $1,200 che servirono al padre di Mariam, che era oltretutto un tossico dipendente, per pagare i suoi debiti. Quindi insomma il matrimonio della povera Mariam veniva usato per scopi così di bilancio familiare. Purtroppo la Mariam andò incontro ad un suo calvario, perché incominciò ad essere picchiata, la suocera la trattava come una schiava in casa, facendole fare i lavori più umilianti. Dopo 2 anni di maltrattamenti e di abusi e di violenze, Mariam scappò di casa e andò alla polizia di Kabul a denunciare il suo caso. Un tempo probabilmente Mariam sarebbe stata messa in prigione dalla polizia anziché liberata dalla sua condizione di schiavitù familiare. Invece, cosa è successo? È successo che i poliziotti di Kabul hanno avviato la ragazza ad un women shelter, un rifugio per donne maltrattate, che era completamente sconosciuto prima del 2003. È organizzato da un'associazione che si chiama Women for Afghan Women, cioè donne per le donne afghane, e che appunto cercano di combattere queste pratiche dei matrimoni forzati che continuano a essere in vigore nonostante sia stato introdotto per legge un limite di 16 anni per le donne, di 18 per gli uomini. E ancora si racconta nell'articolo che poi insomma la sorte di Mariam dopo un periodo di esilio forzato in questo rifugio e ritornò poi con il marito per poi scappare un'altra volta, perché nonostante le promesse il marito ritornò a picchiarla. Ecco, su questi temi che sono legati poi insomma alla giornata della donna, visto che ci siamo come tutti gli anni all'8 marzo, abbiamo al telefono un ospite che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Grazie Farihan Sabahi, benvenuta alla Finestra sul Cortile. E grazie a voi. E Farihan Sabahi è docente di storia dei paesi islamici all'Università di Torino, ma è anche alla Sapienza di storia dell'Iran, è anche autrice di una importante storia dell'Iran contemporaneo. Ecco Farihan, a che punto sono le legislazioni e anche gli interventi a favore delle donne nei paesi islamici, al di là dell'Afghanistan? Ma la situazione è molto diversa nei differenti paesi. Sicuramente l'Afghanistan è tra i tanti paesi islamici quello che gode di peggiore stampa. La Costituzione afghana adottata recentemente stabilisce che i cittadini dell'Afghanistan, indipendentemente dal fatto che siano uomini e donne, hanno uguali diritti e uguali doveri di fronte alla legge, e sicuramente la situazione è molto migliorata dalla caduta dei talebani alla fine del 2001. Oggi le donne afghane possono in teoria tornare a lavorare, il governo non le obbliga più a indossare il burqa come facevano invece i talebani, e alcune di loro sono state anche nominate in posizioni importanti, ma nonostante tutti questi cambiamenti la situazione è ancora molto difficile per le donne e la repressione è prevalente soprattutto nelle aree rurali, dove le famiglie patriarcali impediscono alle donne anche di andare a scuola. Bisogna tenere presente che soltanto il 30% delle bambine afghane ha accesso alla scuola, e una donna su tre, secondo le statistiche, vive sulla propria pelle un'esperienza di violenza durante la vita, e l'aspettativa di vita per le donne afghane è soltanto di 44 anni. Quindi insomma non molto è cambiato rispetto a quello che abbiamo visto in quello straordinario film che era Viaggio a Kandahar, no? Che ci faceva vedere proprio la condizione umiliante. Sì, la situazione in Afghanistan resta molto difficile, soprattutto a livello dell'istruzione, perché l'87% delle donne afghane sono analfabete. Questa è una situazione molto diversa, lei mi chiedeva rispetto anche ad altri paesi. Pensiamo al vicino Iran, dove invece il tasso di alfabetizzazione è tra i più alti dell'Asia, dove addirittura il 65% delle matricole sono donne. Quindi a un certo punto il governo del presidente Mahmoud Ahmadinejad aveva ipotizzato di inserire addirittura delle quote azzurre per permettere agli uomini di avere un uguale accesso all'istruzione universitaria, se non che le donne in Iran votano dal 1963, e quindi una misura così impopolare potrebbe mettere a rischio la rielezione di Ahmadinejad il 12 giugno prossimo. Quindi insomma il governo poi in realtà non ha promulgato questa legge, perché appunto sarebbe stata controproducente. Certo, ecco, quindi l'educazione è un'arma straordinaria di liberazione, su questo non ci sono dubbi. Quello sicuramente, perché aiuta la consapevolezza, quello sicuramente resta uno dei capisaldi proprio del processo democratico. Ecco, ma visto che parliamo per l'appunto di Iran e di prossime elezioni, possiamo azzardare qualche pronostico? Che cosa si sta muovendo a livello di opinione pubblica e di elettorato? Ma guardi, i pronostici in Iran non hanno senso perché in realtà sono sempre stati sbaragliati poi dal voto popolare. Sono elezioni, per modo di dire, democratiche, perché c'è un consiglio dei guardiani fatto da 12 religiosi che poi valutano quali candidati si possano presentare e quali no. Sembra che Ahmadinejad abbia buone probabilità di essere rieletto, si presenta nuovamente candidato il riformatore Khatami e non è detto che certo. Non lo vada a votare. Secondo me la chiave è l'economia in questo caso in Iran, perché sì, le donne vanno a votare, quindi magari avrebbero più voglia di votare un presidente riformatore illuminato, eccetera. Ma c'è anche da dire che Ahmadinejad in questi 3 anni e mezzo in carica ha elargito contanti ad essere manche anche le donne. Per esempio le testatrici l'anno scorso si sono viste arrivare l'equivalente di 3.000 euro di bonus da parte del governo, e adesso una delle misure che Ahmadinejad sta cercando di mettere in atto è un'elargizione mensile di 55 euro a iraniano, indipendentemente dal sesso, indipendentemente dalla composizione familiare. Quindi insomma, in un certo senso il presidente sta cercando di comprarsi i voti, il consenso, certo, come esatto, fanno esatto. Tutti i grandi capi leader populisti, ecco, di tutto il mondo. Noi ringraziamo Farihan Sabahi, alla prossima. Grazie a voi. E dall'Afghanistan andiamo in Israele. Sulle pagine del Jerusalem Post, un articolo di Maya Spitzer ci racconta un misterioso tipo di costruzioni di 5.000 anni fa che ci sono nelle sabbie del deserto del Negev e dell'Arava, e che adesso ricercatori dell'Università di Haifa hanno cercato di ricostruire per le loro funzioni. Venivano chiamati aquiloni del deserto perché, visti dall'alto dai piloti inglesi che sorvolavano il deserto durante nel primo Novecento, avevano la forma di un aquilone, ma sono delle costruzioni appunto che coprono centinaia di metri di deserto fatte a forma di rombo e che servivano, così hanno stabilito gli archeologi, a indirizzare la fauna selvatica dentro a delle trincee dove potevano essere cacciate più agevolmente. Quindi i progenitori degli attuali israeliani avevano una grande capacità tecnologica anche nella costruzione di muri. E adesso voliamo in Giappone. Sulle pagine di Japan Today apprendiamo che per effetto della crisi economica gli sposi giapponesi tendono a fare delle cerimonie al risparmio, al massimo risparmio, cioè non invitano nessuno e si fanno semplicemente fotografare in coppia. Vanno in uno studio fotografico e fanno una fotogallery, insomma, sulla cerimonia. E in questo modo riescono a risparmiare le spese della festa. Certo, potrebbero risparmiare ancora di più semplicemente mettendosi su Facebook. Forse questo sarà il passo successivo. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande in redazione, Giorgio Mattè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiabergi vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.